Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Gennaio e febbraio del 1821. Napoli, Ferdinando chiama, la Santa Alleanza risponde, 50.000 austriaci pronti a battersi per la restaurazione. Il popolo delle due Sicilie deluso dal re, volta faccia sulla Costituzione, forti tensioni in Piemonte. Si chiama aritmometro la nuova invenzione francese, gli inglesi lo chiamano computer. Lutto per la Gran Bretagna, muore a Roma il poeta inglese John Keats. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Le grandi potenze, l'Austria in particolare, si apprestano a sedare la rivolta carbonara napoletana. Ferdinando era partito da Napoli, diretto a Lubiana per il congresso, assicurando ai suoi sudditi e al suo governo che avrebbe convinto le grandi potenze ad accettare l'avvenuta promulgazione della Costituzione. Ma non ha tenuto fede alla sua parola e anzi ha chiesto all'Austria di intervenire con le armi per ripristinare la sua sovranità assoluta, senza mediazioni liberali. Ancora una volta il regista di tutto è stato il cancelliere austriaco Clemens von Metternich, timoroso e non a torto che le sollevazioni spagnola prima e napoletana poi potessero condurre a nuove rivolte a un assetto d'Europa diverso da quello pensato a Vienna. La marcia degli austriaci, 50.000 guidati dal generale Fremont, è iniziata e l'esercito sta procedendo verso sud, mentre al governo e all'esercito napoletani è arrivato un messaggio di Ferdinando che non solo dalle parti dei carbonari viene considerato tra il surreale e la presa in giro. Il sovrano chiede di aprire le porte della città agli austriaci per, scrive, il bene della nazione. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. È stato inventato l'anno scorso e le aziende sembrano già guardare con grande interesse all'aritmometro, uno strumento pensato dal francese Thomas de Colmar, che permette di fare lunghe operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, un'invenzione che gli inglesi hanno ribattezzato computer. È morto a nemmeno 26 anni a Roma uno dei poeti più apprezzati della scuola romantica britannica. John Keats è scomparso. Era gravemente malato e si era trasferito in Italia anche per allontanarsi dal clima pessimo di Londra. E a Roma è stato sepolto. Sulla sua lapide ha voluto che fosse scritto: «Qui giace uno il cui nome fu scritto sull'acqua». È tutto sul nostro sito, potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog e la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento, fatelo prendendo penne e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.